Alla conferenza stampa di presentazione di agosto con noi per l'Istituto Ramazzini, che anche quest'anno allieterà il mese di agosto a Ozzano dal 3 al 16 agosto, abbiamo l'opportunità di essere insieme al grande Paolo Mengoli, che ci parlerà sia della sua apparizione il 3 agosto in apertura, sia un pochino delle iniziative di tutta la manifestazione. Come di consueto devo dire, perché ormai sono decenni che partecipo a questa grande manifestazione organizzata da Umberto Conti, da Sergio Principe, con la collaborazione anche di tanti volontari, di Enrico Bandiera che cura tutta la parte grafica dello spettacolo. Devo dire che a Ozzano Emilia dal 3 al 16 agosto ci saranno delle grandi serate con tanti ospiti e io mi onoro di aprire questa manifestazione come gli altri anni il 3 di agosto. Ci sarà qualche novità quella sera per quanto mi riguarda, perché farò un omaggio a Lucio Dalla nel decennale della sua scomparsa con un video molto bello e un omaggio anche a una canzone bellissima che io ho dedicato a mio padre, che era un assiduo frequentatore delle feste dell'Agosto con noi di Ozzano Emilia, scomparso anni fa, però questa canzone è una canzone molto bella e molto significativa, che è La voce del silenzio. Io devo dire che sono veramente felice di essere anche quest'anno a questa manifestazione. Venite numerosi, l'ingresso è libero, stand gastronomici, si mangia benissimo e tutto il ricavato appunto sarà devoluto all'Istituto Ramazzini, fondato a suo tempo dal professor Maltoni, che è impegnato nello studio dei tumori solidi e tutto ciò che riguarda le malattie. Benissimo, ti ringraziamo. Abbiamo visto che sarai accompagnato dal maestro Paolo Martorana. Sì, c'è il maestro Paolo Martorana che mi accompagna sempre quando siamo fuori con le basi, perché siamo con le basi. Lui è quello che mi coordina un po' tutto e al mio arrivo prendo il microfono e canto e sono a posto. Quindi perfetto, quindi una presenza essenziale. Benissimo, ti ringraziamo. Grazie a voi, grazie a voi.